Si sa che non è facile proporre un argomento e stare a tema, rientrare in uno schema prefissato dal sistema, al centro dell'arena per star fuori dalla media, per spezzare la catena che ci frena. Combatto per la scena, per chi sulla mia barca adesso rema, per chi non si dà vinto di fronte al primo problema, per chi ci crede e vede, per chi spinge e chi non cede, per chi resta in piedi mentre c'è lo scarso che si siede. Tutto il resto si fotte, il resto non importa, non è la prima volta che ogni cosa mi va storta, non è la prima volta che la mia parola sborda, grida contro questa vita maledettamente corta. Si fotte perché dentro alla testa un obiettivo, si fotte se il tragitto è lungo prima dell'arrivo, si fotte chi non condivide quello per cui vivo, si fotte chi gioca a fare la parte del cattivo, felice e spensierato come il gioco di un bambino, non si ferma il mio cammino, stare a tempo è il mio destino. Si fotte chi non stimo, si fotte chi è passivo, si fotte chi non è nessuno e si atteggia da divo. Si fotte se ci devo provare mille volte, se ogni santa notte mi trovo chiuse le porte. Si fotte se tutte le strade sono corrotte, l'importante è che riesco ad andare oltre e oltre. Si fotte se devo farmi strada con le nocche, se alla fine del viaggio le mie mani sono sporche. Si fotte se la mia voce è sempre troppo forte, perché ripeterà il mio nome fino alla morte. Nasci, cresci, vivi e impari a diventare uomo, per entrare dentro il sistema e prenderlo per buono. Devi assumere il tuo ruolo, devi moderare il tono, devi comportarti solo come ti vogliono loro. Ma io mi muovo col mio modo, provo, studio e mi miglioro. Sono figlio di questa terra e adesso a lei mi offro in dono. Quando rappo io ragiono, quando il beat sembra un tuono, porto il frutto dell'oro, la Sardegna sopra un suono. E penso che quello che faccio debba avere un senso, che questa cazzo di palla alla fine vada a canestro. E per questo ringrazio chi mi ha dato quando ho chiesto, rispetto chi capisce il significato di un gesto. Per la voglia che ci ho messo, per la forza che ho trasmesso, non mi dimentico che ho promesso per i ragazzi e per Lorenzo. E non scherzo se penso a quello che mi sono perso, se per ogni andata in culo un altro whisky che mi verso. Ognuno è diverso, nessuno è modesto, son tutti prime donne e tutti re senza lo scettro. Se ci devo provare mille volte, se ogni santa notte mi trovo chiuse le porte. Si fotte se tutte le strade sono corrotte, l'importante è che riesco ad andare oltre e oltre. Si fotte se devo farmi strada con le nocche, se alla fine del viaggio le mie mani sono sporche. Si fotte se la mia voce è sempre troppo forte, perché ripeterà il mio nome fino alla morte. Si fotte il mio cervello quando penso troppo, si fottono le rime e tutti i messaggi che porto. Si fotte chi ha ragione come si fotte chi ha torto, mi fotto io insieme ai consigli che non ascolto. Si fotte il giorno, c'è troppa luce e mi confondo. Si fotte ogni notte che l'indomani non ricordo. Si fotte il confronto, si fotte chi è ingordo, chi è sopra e chi è sotto, chi comanda lo scontro seduto in salotto. Il mio motto è me ne fotto, vivo il rap, sono il gioco. Blocco il mondo, lo riavvolgo e poi ci sparo sopra un colpo. È un'arma, il rap l'unica cosa che mi calma, l'unica pistola in tasca, l'unico pezzo che incastra, l'unica mano che impasta, l'unica voce che raschia, l'ultima scelta rimasta. Chiudo gli occhi, rappo e basta. È uno shock seguito da una reazione istintiva. Non te ne accorgi quando arriva, non te ne accorgi ma continua. Entra nel corpo, lo ravviva, muove il cervello, lo riattiva. Parla di gente che cammina, chi combatte, chi si inchina, di chi crea, di chi rovina, di chi critica, chi stima, di chi sfida, di chi sfila, di chi è stanco e grida in rima. Si fotte se ci devo provare mille volte, se ogni santa notte mi trovo chiuse le porte. Si fotte se tutte le strade sono corrotte, l'importante è che riesco ad andare oltre e oltre. Si fotte se devo farmi strada con le nocche, se alla fine del viaggio le mie mani sono sporche. Si fotte se la mia voce è sempre troppo forte, perché ripeterà il mio nome fino alla morte. Si fotte se ci devo provare mille volte, se ogni santa notte mi trovo chiuse le porte. Si fotte se tutte le strade sono corrotte, l'importante è che riesco ad andare oltre e oltre. Si fotte se devo farmi strada con le nocche, se alla fine del viaggio le mie mani sono sporche. Si fotte se la mia voce è sempre troppo forte, perché ripeterà il mio nome fino alla morte.